Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, edizione 2016 di Globetrotter 24. Ben ritrovata Valeria. Ben ritrovata a te Annarita. Allora, ripartiamo con il nostro giro d'Europa e d'Italia a caccia di destinazioni insolite e particolari. Valeria, sei pronta? Sono prontissima, Anna, tanto che quest'anno abbiamo deciso anche di allargare un po' i nostri orizzonti, abbiamo chiesto aiuto a dei colleghi, non vi sveliamo ancora nulla, poi nel corso della puntata avrete informazioni aggiuntive, magari su cosa leggere e su cosa mangiare. Valeria, diciamolo subito, la destinazione della prima puntata non l'abbiamo scelta a caso. Andiamo in Francia perché non dobbiamo parlarne solo nelle pagine di cronaca, non deve prevalere la paura. E Globetrotter 2016 parte per questo dalla Francia, che è un paese bellissimo. Allora dove mi porti? Non ti porto tanto lontano dalla Lombardia, ti porto ad Annecy. In Francia ho scelto Annecy, che è molto vicina all'Italia e che ho visitato solo per pochi giorni, ma mi riprometto assolutamente di tornarci. Si trova ai piedi delle Alpi francesi nella regione della Valle del Rodano ed è un vero e proprio piccolo gioiello. Pensa che la chiamano la Venezia della Savoia e si distingue appunto per la sua architettura urbana fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, casette colorate e negozietti d'arte. Lo scenario, ti assicuro, è assolutamente da favola. Una città antica avvolta dal lago di Annecy, sulle cui sponde ci sono ville, giardini, piccoli porticcioli, caffetterie e bistrò. Ci sono tantissimi turisti tutto l'anno perché Annecy è affascinante in ogni stagione. Da visitare ci sono tante cose, ti segnalo il castello di Annecy, al cui interno c'è il museo sulla storia di questi luoghi con una sezione dedicata all'antropologia alpina. Ti resterà sicuramente impresso nella mente, come è successo a me e alla maggior parte dei turisti, il Palais de l'Île d'Annecy, che è un po' il simbolo della città, lo trovi nella maggior parte delle fotografie dei turisti. È molto bella la sua architettura in pietra, ma soprattutto la sua collocazione. Si trova sul canale di Thiou, emissario naturale del lago. È stato a suo tempo una prigione e oggi al suo interno invece troverai un interessante museo di storia. Se visiterai Annecy con il sole, come spero, devi assolutamente camminare lungo il lago, lasciare il centro e costeggiare la pittoresca chiesa gotica di Saint-Maurice e Place de l'Hôtel de la Ville, fino ai Giardini d'Europa, collegati da un ponte al Parco Champ de Mars. Una pista ciclabile lungo lago di 40 km è l'assoluta felicità dei ciclisti. In autunno diventa teatro della singolare Anne-Sylvienne, una gara di velocità a coppia dove ci si alterna su una sola bici, per questo detta gara Run and Bike. C'è un altro particolare curioso che riguarda Annecy, non solo per i ciclisti. Ogni anno Annecy concede uno spazio di rilievo all'Annecy Cinema Italien, la cui prima edizione pensa si è svolta nel 1983. Nel corso di questa manifestazione la giuria assegna il Grand Prix per il miglior film, oltre per la migliore interpretazione femminile e maschile, ed una serie di premi speciali. Da oltre 30 anni questa manifestazione attira sempre più spettatori ed ha un duplice obiettivo: offrire un vasto pubblico ai film proiettati durante il festival e che spesso sono film che non sono distribuiti nelle sale francesi, e nel contempo riunire il più alto numero di professionisti del settore per migliorare la diffusione dei film italiani in Francia. Mais tu sens la friture, tu veux mon adresse. 13 euros caisse bitume, fais pas de grands gestes. On le porte à la ceinture, frère combien tu chausses. T'as pas l'air d'une grosse pointure, l'hiver je suis en short. Comme pour pas, je fais une tête. Come arrivare ad Annecy? C'è un aeroporto, quello più vicino, che è quello di Ginevra, che si trova a 40 km. Però potete agevolmente, lo abbiamo detto, dall'Italia raggiungerla in auto o in treno. Per intenderci, in auto dal nord Italia ci vogliono in media 5 o 6 ore. I costi, gli alberghi non sono economicissimi, ma ripeto, Valeria, è una meta turistica tutto l'anno, quindi si possono comunque trovare delle soluzioni più economiche, ma in media è abbastanza cara. Stesso discorso per i ristoranti. per i bambini. Per i bambini, anzi, è un contatto con la natura totale. Puoi portarli a fare una gita in battello, anche di notte, molto bella, oppure semplicemente noleggiare un pedalò e ammirare dal lago la città. Sempre sul lago, oltre alla bella passeggiata, è presente un enorme parco cittadino dove i bambini potranno correre, potranno giocare. A proposito di bimbi, prima di chiudere questo scorcio su Annecy, voglio farti una segnalazione davvero speciale. Da Annecy, se puoi noleggiare un'automobile, ti consiglio di raggiungere un paesino piccolino che si chiama Vaux e che è a circa 20 chilometri e visitare i suoi giardini segreti. 7.000 metri quadrati di un mosaico unico di giardini raffinati in stile barocco. Sono lì dal 1994 nati dalla fantasia e dalla grande passione di una coppia di coniugi francesi, una passione poi trasmessa alle tre figlie. Passione nel riuscire a combinare tra loro vari elementi come legno, rame, pietre, cemento, altro materiale, spesso materiale anche di recupero, per creare delle ambientazioni che rievocano paesi lontani. Dunque è un viaggio assolutamente unico nelle tradizioni del mondo. Questi giardini segreti di Vaux sono aperti da maggio ad ottobre e vengono organizzate anche delle giornate a tema, dei giochi per le famiglie e degli eventi musicali serali. Anna, davvero bella questa località, cercherò di farmici portare al più presto. Io tra poco ti porto in Bretagna e Normandia. Adesso però la prima delle nostre novità, perché abbiamo voluto chiedere aiuto a Salvatore Carruba per farci consigliare alcune letture particolari proprio legate ad Annecy e alla Bretagna e alla Normandia. Ad Annecy è legato Patrick Modianon, che ha vinto 2 anni fa il premio Nobel per la letteratura e che in quella città studiò e ambientò, senza mai citarla per la verità, parla solo di una città che si chiama Villa Triste, un libro del 1973 ambientato all'epoca della guerra d'Algeria che descrive il clima sospeso della città che rappresenta quasi un porto di mare, una sorta di bolla di sicurezza nel mondo inquieto che le è intorno. Il libro è pubblicato da Bompiani. In Normandia, naturalmente, non possiamo dimenticare qualche libro su quell'evento storico che lì si svolse, cioè lo sbarco delle truppe alleate. I libri sono molti, ve ne segnalo uno dei più recenti di Olivier Vievorca, che è uno storico francese, Lo sbarco in Normandia, pubblicato dal Mulino, che depura quell'evento dalla retorica che fatalmente se ne è impossessato. Di grande successo è stato anche D-Day, storia dello sbarco in Normandia, di Stephen Ambrose, pubblicato da Rizzoli. Questo è il libro al quale si è ispirato Spielberg per il suo film Salvate il soldato Ryan. Poi di Ryan Cornelius, sempre pubblicato da Rizzoli, c'è Il giorno più lungo, che ha fatto da base anch'esso a molti film, anche per le 383 testimonianze di soldati di tutte le nazioni, compresi i tedeschi, coinvolti nello sbarco, nella battaglia. Però in Normandia vi voglio segnalare poi uno dei romanzi più belli di Simenon, che non è soltanto un grande giallista ma è anche un grandissimo scrittore. Il libro si intitola Il Presidente, pubblicato da Delphi, ed è la storia malinconica ma straordinaria di un vecchio politico, una sorta di padre della patria, che sente vicino il richiamo della patria che purtroppo non arriverà mai. Valeria, noi abbiamo segnalato delle località che abbiamo prescelto, ma in questi paesi che vi presenteremo in ogni puntata ci sono anche delle curiosità, delle cose particolari che potete fare e che allora anche queste noi vi segnaliamo. Il piccolo villaggio di Giverny è conosciuto ai più come la dimora del celebre pittore Claude Monet. Non è un mistero che la bellezza della natura che circonda Giverny è stata una grandiosa fonte di ispirazione per Monet, che ha vissuto nel villaggio fino al 1926. La sua dimora è diventata la Fondation Claude Monet. Il Museo dell'Impressionismo annesso ospita varie mostre ogni anno, prestando particolare attenzione agli artisti locali. Se siete degli amanti dell'arte, vale assolutamente la pena di visitare il museo e la Fondazione Claude Monet. Un treno da Parigi e possiamo soddisfare la voglia di gabbiani, di passeggiate sulla sabbia o di indossare un costume da bagno. Due i posti da non perdere. Treno da Paris Saint-Lazare per Deauville-Trouville. In 1 ora e 56 minuti si può raggiungere Deauville, raffinata località balneare, prediletta dai parigini, che ha una spiaggia di 2 chilometri molto frequentata e al suo interno un casinò e molti negozi di lusso. Leggermente più distante, Varengeville-sur-Mer, raggiungibile con treno da Paris Saint-Lazare per Dieppe, poi 10 km in taxi. In complessive 2 ore raggiungerete questo piccolo villaggio molto amato da artisti come Monet, Dufy, Miró e Braque. Un luogo ideale per gli amanti dei paesaggi e delle camminate. Il Piccolo Principe, il capolavoro letterario scaturito dalla mente dell'autore francese Antoine de Saint-Exupéry, è forse il libro per bambini per eccellenza. In Alsazia c'è il Parco del Piccolo Principe, in prossimità del confine franco-tedesco. Il parco divertimenti offre attrazioni classiche, come per esempio uno schermo in 3D, un'esposizione di animali, bar e ristoranti, ma la peculiarità assoluta sta nelle attrazioni ad alta quota. È infatti possibile godersi la vista della splendida area circostante dall'alto di una fantastica mongolfiera. Persino il bar principale del parco è sospeso a 35 metri dal suolo, per rendere omaggio alla passione dell'aviazione di Antoine de Saint-Exupéry. A Metz, capoluogo della Lorena, è stato inaugurato nel 2010 un progetto a dir poco ambizioso. Si tratta della prima grande opera di dislocamento di una delle più importanti istituzioni francesi e mondiali nel panorama dell'arte contemporanea, il Centre Pompidou di Parigi. Il Pompidou di Metz vanta ben 5.000 metri quadri di area espositiva ed è stato progettato seguendo il principio dell'ecosostenibilità della struttura, che presenta numerosi elementi realizzati interamente in legno, ma anche in vetro, mentre la copertura è stata creata in teflon autopulente. A saltare subito all'occhio è certamente la forma, a cappello cinese, del Pompidou, che culmina in una guglia alta ben 77 metri, cifra che richiama l'anno di inaugurazione dell'omonimo centro parigino, il 1977. Segnalazioni editoriali, curiosità sulla Francia, tra pochissimo andiamo anche in Bretagna e Normandia, restate con noi. Globetrotter 24. Ben ritrovati, siamo in Francia in questa prima puntata di Globetrotter 24. Annarita, io ti porto in Bretagna e Normandia. Molto romantico il giro in Bretagna e Normandia, perché nell'immaginario, e non solo nell'immaginario, queste regioni francesi sono sempre avvolte nelle nebbie dell'Atlantico, perché soprattutto la Normandia fa pensare a Proust, a Balbec, nella realtà Cabourg e alla ricerca del tempo perduto, perché romantiche sono le spiagge, il romanticismo per eccellenza trova la sua sublimazione in Mont-Saint-Michel. Però andiamo con ordine. Il mio sempre modestissimo consiglio è arrivare in qualunque aeroporto, anche Parigi, ma potrebbe essere comodo anche Nantes, e affittare una macchina. Prima di partire consiglio di comprare una guida ai bed and breakfast. Potrebbe anche non servirvi altro. Di B&B ce ne sono in quantità. Non mi è mai capitato, tra l'altro, di imbattermi in scortesia tutt'altro. Colazioni ottime, anche le strutture, a parte qualche caso, tutte adeguate. Tra l'altro spesso si tratta di antichi casolari, ville. Anna, una volta mi è capitato anche un piccolo castello. Dopodiché Bretagna e Normandia, oltre a offrire ostriche, sono il regno di cozze e patatine fritte. Non vi opponete, è inutile. Se andate con i bambini poi sarebbe una battaglia persa cercare di resistere. Lasciatevi andare. Il mio giro è cominciato da Rennes, ma nulla vieta di partire direttamente dalla costa, da Vannes, da Concarneau, da Quimper. Rennes è abbastanza grande, oltre 200.000 abitanti, capoluogo della Bretagna, Se potete, non escludetela dal giro perché vale la pena. Vale la pena per la cattedrale, architettura classica del Settecento. Vale la pena per le case che ancora sopravvivono nel centro storico, medievali, con intelaiatura a traliccio che fanno un po' pensare ad Asterix. Basta anche una notte, tanto per cominciare a calarsi in un'atmosfera diversa da quella parigina. Poi direzione mare. La mia esperienza è seguire la costa e fermarsi ogni qualvolta il panorama lo meriti. Già a Concarneau ci sarebbe qualcosa da fare, ad esempio una capatina nell'arcipelago delle Glenan, dove c'è una delle sedi della famosa scuola di vela. Quimper non è proprio sul mare, ma una fermata io la farei e poi proseguirei per le scogliere. Vado un po' veloce perché vorrei arrivare a Saint-Malo, pochi chilometri prima di Mont Saint-Michel, ugualmente affascinante. L'acqua circonda il centro storico ed è un colpo d'occhio davvero emozionante. Si lascia la macchina, se siete arrivati con una quattro ruote, e poi potrete perdervi nelle stradine di quella che sembra una piccola isola, ma che isola non è. Di sera è bello sedersi ai tavolini all'aperto, di giorno merita anche una bella passeggiata sulla spiaggia, sperando ovviamente in una giornata di sole. La tappa successiva è Mont Saint-Michel. Io ho avuto la fortuna di vedere arrivare la marea, ma come potete immaginare non è proprio così semplice. Sul sito però dell'ufficio del turismo trovate il calendario. Con la bassa marea il mare è a 15 km dalla costa. Dicono, e lo potete trovare scritto anche spesso, che la marea arriva alla velocità di un cavallo al galoppo. Io, a dir la verità, non mi ricordo questa velocità. Certo è che arriva e allora è meglio trovarsi in alto perché lo spettacolo è di quelli che lasciano davvero stupefatti. Può essere un pochino faticoso salire all'abbazia, per esempio, più che per la strada e la salita per il gran numero di turisti, anche perché dovete immaginare Mont Saint-Michel come un'isola poco più grande di una miniatura. Altre parole è inutile spenderle perché su Mont Saint-Michel ne sono state dette anche troppe e forse nessuna riesce davvero a spiegare. Invece voglio raccontarvi anche in poche battute quale esperienza profonda sia andare nei luoghi dello sbarco e fermarsi davanti al tappeto di croci bianche a Saint-Laurent-sur-Mer, all'Omaha Beach Memorial Museum. Un prato verde con centinaia e centinaia di croci, tutte uguali. Io davvero mi sono commossa in maniera profonda, perché in quel silenzio è come se si riuscisse a toccare tutta la sofferenza, la fatica, il sacrificio di chi è stato lì, a oltre 70 anni di distanza. La costa della Normandia è tutta bella, scogliere, spiagge, piccoli porti, insomma il romanticismo abita qui. Cap du Log è un esempio che vale per tutti. Vi segnalo ancora Caen e Rouen, due centri che vale la pena di vedere per l'architettura. Le chiese e l'abbazia nella prima, che lo ricordiamo fu pesantemente colpita nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Rouen è una delle più importanti città d'arte del paese, Ville Musée viene chiamata, conserva moltissimi monumenti, soprattutto gotici, e un centro storico ricco di antiche case a graticci, costituenti un importante esempio di complesso medioevale nord-europeo. Io mi sono persa in questo centro storico, vi voglio avvisare. Mi ero incaponita per arrivarci in macchina e mi sono incastrata nei sensi unici. Quindi vi consiglio di lasciare la macchina lontano dal centro. Thank you. Valeria, ma che bei luoghi, ma che belle sensazioni. Intanto tu hai presentato una novità, io adesso presento l'altra, che ti starà particolarmente a cuore, perché abbiamo deciso di introdurre, lo diciamo per i nostri radioascoltatori, una rubrica di segnalazioni enogastronomiche legate al paese del quale stiamo parlando. E quindi sentiamo il nostro gastronauta Davide Paolini cosa ha da segnalarci per la Francia. Sicuramente le segnalazioni non mancano anche fuori di Parigi, perché in questo momento la Francia è inondata da una moda delle bistromanie. Cosa sono le bistromanie? Sono dei bistrò vecchia maniera che oggi sono interpretati da giovani che hanno fatto la gavetta da grandi chef e riportano una cucina molto più semplice e con costi decisamente inferiori, e anche i locali sono locali, diciamo, così, di mobili trovati qua e là, vintage, e soprattutto il costo è intorno ai 45 euro, questo ormai si paga in queste bistromanie, ma diciamo che visto che andiamo verso il nord non posso dimenticare Cancale è il posto delle ostriche per eccellenza, un posto straordinario e quindi una meta per chi va, diciamo, sale e va verso la Bretagna, la Normandia, non deve assolutamente trascurare, perché qui si mangiano e si gustano, forse meglio dire così, le migliori ostriche del paese, e si assaggiano anche con le bancherelle, delle bancherelle con, diciamo, che si trovano anche per strada. A Cancale ne segnalo uno vicino alla stazione ferroviaria, dove sicuramente si accostano queste ostriche con un vino molto particolare che è il Muscadet. E quindi le ostriche, certo, ci sono ostriche di tante tipologie, da ostriche che vanno carissime a quelle meno, diciamo, molto più a buon mercato, però mangiandolo in bancherelle così per strada sicuramente non si spende molto. Beh, in Francia si bevono dei vini straordinari, quindi credo che qui veramente ci sia l'imbarazzo della scelta. È vero, in Francia i vini sono molto molto più cari, però si trovano i vini del contadino, che li chiamano il paysan, quindi sicuramente si possono trovare un po' ovunque, e man mano che si sale sicuramente i vini diventano sempre meno cari, perché ci si allontana dalla Borgogna, dalla Bretagna, e quindi si vanno in luoghi dove diciamo i prezzi sono decisamente inferiori. Quindi io, cioè, non solo le ostriche si mangiano appunto nei paesi Bretagna, Normandia, ma si mangiano anche altri frutti di mare, quindi diciamo è una stagione quella dove andare veramente in estate, perché si trovano appunto frutti di mare e ostriche, ed è il momento migliore per abbinarle magari anche con le bollicine. Annarita, siamo arrivate ai saluti finali di questa prima puntata di Globetrotter 24 2016, oggi dedicata tutta alla Francia. Ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica globetrotter24@radio24.it. Per segnalazioni anche di posti, di luoghi, di paesi e di destinazioni, noi siamo qui. E vi forniremo anche qualche dettaglio in più sul cibo, come avete sentito, e sui libri. Alla prossima!